Ah, conti troppo, vedo. Ne ho visto una volta. Ne ho visto una volta, vada. Quando era via al MAS, che aiutavo a lavorare in campagna, le venivo a sorvegliare la campagna perché in allora era comandato io, ma in allora comandava il conte. E allora veniva a controllare, ecco, era un gran come me, grosso. Però non è che abbia parlato con lui. Niente, insomma. No, era simpatico, no, no, era una persona simpatica, ci aceleva volentieri col por Arturo, col por Dericoli. Era una persona cordiale, era simpatico anche. Però dopo si parlava fra di loro di campagna, non è che ti stavi lì a ascoltare tutto adesso. Nonno parlava italiano. Nonno parlava italiano bene, no? Questa volta, così è la vita.